l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa, il nostro viaggio settimanale alla ricerca dell'attualità, del costume, delle tendenze europee. Cerchiamo di vederle, cerchiamo di raccontarle anche da altri punti di vista. Le coordinate per intervenire in diretta via SMS al 349-238-6666, le mail l'altraeuropa@radio24.it oppure il nostro profilo in Facebook, la nostra pagina facebook.com/l'altraeuropa, dove mettiamo in diretta anche gli aggiornamenti continui sui vari link degli argomenti che andremo a toccare. Un programma in collaborazione con Euronet, questa network europea di radio, dove andiamo anche ad affrontare temi comuni, cosa che faremo anche oggi. Ma partiamo con il nostro viaggio e partiamo dalla Spagna, dove è iniziata la guerra dei cognomi. El apellido paterno dejará de prevalecer sobre el materno si el proyecto de ley del registro civil, que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso, sale adelante. Se trata de avanzar en la igualdad de género mediante una fórmula que permite el acuerdo de los progenitores. Il governo apre la guerra dei cognomi, questo era un titolo su un quotidiano spagnolo. Il caso fa un po' ridere, insomma, in tempo di crisi che gli spagnoli abbiano tempo anche per pensare a queste cose. In Spagna, insomma, spesso si usa il doppio cognome e di norme quello che è quello del padre che precede quello della madre. Il Parlamento però ha respinto, pare, questa riforma perché si vuole permettere alle persone di scegliere prima quello della madre o prima quello del padre. C'è chi ha proposto anche che venga fatta una lotteria per scegliere il giusto ordine. Insomma, volevamo capire bene dov'è il cuore della notizia e qual è anche un po' il sentore della popolazione. Quindi abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa, lei è un'esperta di politica italiana ma anche di politica spagnola, fa l'autrice televisiva, lavora a Ballarò qui in Italia. Diamo il benvenuto a Mercedes Vela Cossio. Ciao Mercedes. Ciao Federico, buongiorno. Buon sabato a te. Prima il padre o prima la madre nel tuo caso? No, prima il padre, sono una spagnola ad hoc. Prima il cognome di mio padre, Vela, e poi quella di mia madre, Cossio. Veramente si è aperta questa guerra sui cognomi? È una storia antica anche o è cosa di adesso? In Spagna noi, a differenza di molti altri paesi europei, abbiamo tutti e due i cognomi, proprio per legge, tutti e due ufficiali sul passaporto, sulla carta d'identità, e viene fatto nel modo che si prende il primo cognome di tuo padre e poi quello di tua madre, e quello è la regola generale. Adesso, in teoria, questo disegno di legge, quello che vorrebbe sarebbe che di andare, diciamo, a registrare il bambino, insomma, di scriverlo, sì, i genitori scelgano quale cognomi deve essere messo prima. Se non si arriva a un accordo, loro non si mettono d'accordo su quale dei due deve andare prima, a quel punto si dovrebbe fare una sorta di, cioè si pensa a farlo a modo alfabetico, che si prenda la decisione in base all'ordine alfabetico. Cioè, in realtà in Spagna già puoi scegliere, mettere prima quello della madre, però diciamo a priorità quello del padre. Per fare quello della madre gli fa una richiesta specifica, fare un iter. Adesso si dice, tu vai al registro, decidi quello del padre o quello della madre, gli dici metta questo prima o quest'altro. Mercedes, ma è un qualcosa che va al di là del simbolico? Cioè è un'esigenza reale quella di avere questa uguaglianza nei cognomi? Da questo punto di vista non credo che ci sia un paese più ugualitario da questo punto di vista, che ci sia una parità migliore, perché noi abbiamo sia il cognome del nostro padre che della nostra madre, cosa che in molti paesi, per esempio qua in Italia, no, voi direttamente avete soltanto questo del padre, quindi non credo che ci sia veramente questo problema. E a parte, noi anche donne, come donne in Spagna non perdiamo neanche il cognome quando ci sposiamo, quindi io penso che un paese maschilista come la Spagna, per certi versi che lo è e che l'ho sempre stato, su questo sinceramente non mi sembra che ci si possa parlare di mancanza di parità, ecco. E non credo che lo senta neanche la gente, sinceramente, questa cosa. Anzi, perché ti dico, se può già fare questa cosa di mettere quello della madre primo con una richiesta, credo che lo fa tipo il 0,27 della popolazione, quindi non mi sembra che sia una cosa che si chiede proprio dalla strada a urli, ecco. Ma ascolta, la popolazione un po' sta snobbando questo problema, cioè, sono altri problemi credo in Spagna in questo momento. Sì, no, si sta vivendo un momento di crisi molto, molto forte, molto pesante in questo momento, e sinceramente io questi giorni un po' anche questa cosa dei cognomi mi faceva molto ridere, no? E quindi leggevo un po' anche tutte le reazioni. Calcola che molti dei nostri personaggi più famosi al mondo per dirti già, no, sono famosi per il cognome della madre, perché poi ti fai chiamare un po' come ti pare. Picasso, ad esempio, si chiamava Pablo Ruiz Picasso, il Picasso era il nome di sua madre, non di suo padre, o Banderas, anche il nome di sua madre, per dirti Antonio Dominguez Banderas, mi sa. E quindi leggevo che molte delle reazioni, fra cui, che ne so, c'era la lettera degli avvocati che scriveva il ministro della giustizia su un giornale, in cui gli dicevano che pensasse il ministro della giustizia i grossi problemi della giustizia civile nel nostro paese, piuttosto che entrare con queste problematiche così assurde, poco sentite, no? Mi faceva ridere, pensavo di tutto il mondo del paese, c'è sempre qualcosa da dire su queste cose qua. Quindi no, non, la gente sinceramente pensa che è una cosa che può avere del simbolico, però no, non è un'esigenza, ecco, in questo momento non mi pare. Okay. Mercedes, cambio un attimo argomento. Tu ti occupi di politica lavorando a Ballarò qui in Italia, quindi da spagnola racconti la politica agli italiani. Ecco, sui quotidiani spagnoli cosa si legge invece in questi giorni dell'Italia? Purtroppo da qualche mese si sta parlando molto dell'Italia. Si è parlato molto di Pompei la settimana scorsa, addirittura prima si è parlato molto di feste, di ragazze. Questa settimana si parla di instabilità politica, di incertezza ovviamente di un governo, quindi questo si parla. Ma si danno anche dei giudizi? Vabbè, quello secondo me c'è attesa, credo che stanno tutti con gli occhi sull'Italia per capire che cosa accadrà nei prossimi giorni. Mercedes, grazie davvero e buon sorteggio per il cognome eventualmente, insomma. Se... Oh no, io no, guarda, non ho nessuna intenzione di cambiare, a parte che non si può più cambiare, ah, no, il problema okay. È che praticamente se col primo figlio non hai fatto la scelta, poi tutti gli altri devono essere tutti uguali, quindi purtroppo ormai rimane così. Ok, grazie davvero Mercedes, ciao e buon sabato. www.euranet.eu è il sito del network di cui vi ho accennato prima e che di cui vi parlo ogni puntata, e questo network radiofonico vi consiglio di visitare il sito, perché ci sono tantissime sezioni e scegliete tra le 15 lingue, scegliete l'italiano, così andate nelle nostre pagine. Settimanalmente viene scelto un tema, questo tema viene affrontato dai punti di vista diversi delle varie nazionalità, quindi ci sono dei dossier molto approfonditi. Il tema di questa settimana è un tema importantissimo, è quello della prostituzione in Europa. In Europa centinaia di migliaia di donne sono coinvolte nella prostituzione, un fenomeno che è strettamente connesso con il traffico di esseri umani, e ogni paese ha la propria legge. In alcuni stati la prostituzione è tollerata o persino legale o regolata, in altri invece è reato a 360 gradi, insomma, combatterla o legalizzarla è un po' il tema che si vuole affrontare questa settimana. Per parlarne noi abbiamo invitato Lucia Brussa, che è fondatrice di Tampet, una fondazione europea. Lei è italiana, ma ha fondato questa associazione che ha sede ad Amsterdam, e dal 1993 lavora appunto con i lavoratori del sesso migranti, quindi conosce benissimo il fenomeno e lei ci può fare una fotografia della situazione attuale. Diamo quindi il benvenuto a Lucia Brussa. Ciao Lucia, buongiorno, buon sabato. Buona mattina a te. Allora Licia, possiamo fotografare quello che è lo stato attuale? Qual è il rapporto tra Europa e prostituzione? Certo, intanto bisogna dire che nella maggior parte dei paesi europei il lavoro sessuale non è legalmente riconosciuto o regolamentato come una forma di lavoro. E l'industria sessuale, che è molto più vasta della presenza delle prostitute in sé, perché è proprio un'industria con un proprio fatturato, con una propria logica commerciale, non è riconosciuta e vista come un'attività commerciale all'interno di un'economia che può essere formale o informale, di prestazione di servizi o dell'industria del piacere. Quindi si può dire che non ci sono le normative appropriate che sarebbero necessarie sia per la protezione dei diritti delle persone nella prostituzione e sia per i gestori dei locali, che sono la prostituzione al chiuso, alla forma maggioritaria in Europa, e anche per regolarizzare la posizione lavorativa delle persone migranti, che non dimentichiamoci formano la stragrande maggioranza nei paesi dell'Europa occidentale. Ad eccezione di paesi che hanno da qualche anno legalizzato la prostituzione e tutta l'industria sessuale, che sono in questo momento sono l'Olanda, che ha legalizzato al 100% qualsiasi forma di prostituzione e dell'industria del sesso, e in qualche modo la Germania, che ha legalizzato l'aspetto commerciale della prostituzione, quindi non è più reato avere un profitto dalla prostituzione, e altri paesi che hanno cercato un compromesso, quindi hanno cercato di nella tolleranza in qualche modo di fare un sistema di regolamentazione dei locali. Ecco, ad eccezione di questi paesi, la situazione è come l'ho presentata, che non ci sono in realtà delle norme se non quelle ad hoc e se non i paesi che hanno deciso per la forma che è più facile, la meno efficace, che è quello di criminalizzare i clienti. Licia, voi operate in praticamente tutta Europa, in tantissime nazioni. Qual è l'intento della vostra fondazione? La nostra fondazione ha l'intento principale di avere una funzione di osservatorio europeo sul fenomeno, quindi significa che noi misuriamo periodicamente ogni 2 anni, con un lavoro proprio di osservatorio e di ricerca, quali sono i cambiamenti del fenomeno su tutto, sulle forme di prostituzione, sull'impatto delle leggi e delle normative o l'impatto delle politiche, sul fenomeno migratorio e la mobilità all'interno della prostituzione, che è diventata appunto transnazionale, non è più un fenomeno locale, ma è molto influenzata dalle migrazioni europee e dalla mobilità dei cittadini e cittadine europei, e sviluppiamo dei programmi di intervento specifici per tutte le nazionalità, di informazione sanitaria, di aiuto sociale e di sostegno sociale. Con tutti questi risultati poi formuliamo consigli politici per dire che senso ha, che impatto ha una politica, e cerchiamo di dare proprio queste direttive europee sul che fare. Approcci normativi diversi in tutta Europa, ma soprattutto approcci culturali diversi. Ci sono dei progetti pilota che tu pensi siano significativi per capire quelle che possono essere le prospettive anche nell'ottica di un approccio comune europeo? Assolutamente, in primo luogo bisogna assolutamente accettare, non fare confusione tra tratta e prostituzione libera. È la confusione che succede in questo momento, perché questo significa che se si usano le misure contro la tratta come misure repressive contro la prostituzione, non si raggiunge l'obiettivo né di razionalizzare e di governare il fenomeno, né di aiutare le persone che sono in difficoltà. Quindi noi abbiamo visto che i progetti piloti importanti sono quelli che fanno una distinzione ben chiara su cosa è sfruttamento, cosa è lavoro coatto e cosa non è lavoro coatto. Quello che non è lavoro coatto e che è all'interno di un'impresa, che è all'interno di tutto un sistema economico del sesso a pagamento, del sesso commerciale, che può essere visto anche come una forma dell'industria del piacere o dell'industria della vita notturna di un territorio, deve essere governato e razionalizzato. I progetti interessanti sono quelli che riguardano la prostituzione di strada con un sistema di zonaggio, di zoning, dove c'è una politica urbana che decide quali sono i territori che possono essere destinati alla prostituzione di strada, quindi significa che deve esserci una politica di arredo urbano della zona, non si può dire là si può e poi abbandonarla o metterla fuori dal territorio urbano, in periferia o nei luoghi pericolosi, deve esserci proprio un sistema di razionalizzare e di arredare i luoghi con i servizi necessari, con l'illuminazione, con un drop-in center all'interno della zona. Questi sono i tipi di progetti pilota che funzionano meglio. E poi ci sono progetti interessanti di creazione di Aero Center. Ad esempio ad Anversa c'è un Aero Center molto interessante in questo senso, che hanno anche una finalità sociale, quindi non commerciale, dove le prostitute affittano le stanze dell'Aero Center con prezzi equi in cambio di servizi adeguati. Tutto ciò è finalizzato al rispetto dei diritti di queste di queste donne in modo che siano, in modo che siano meno vittime, giusto? No, assolutamente. C'è questa politica che riconosce l'attività prostituzionale come un'attività commerciale, un'attività lavorativa, e dove appunto si riconoscono diritti lavorativi e obblighi, naturalmente, sia per le lavoratrici che per i datori di lavoro. E questo è il miglior modo per proteggere le figure più deboli e per riconoscere quando si parla di lavoro coatto e quando si parla di un'attività commerciale autonoma. Lì c'è un'ultima domanda dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, da cui quindi puoi tenere sotto controllo tutto quello che succede in Europa. L'Italia com'è messa? Com'è la situazione attuale in sintesi e soprattutto in prospettiva? Cosa vedi? Cosa prevedi? L'Italia è messa in questo momento molto male rispetto alla storia delle tendenze, perché allora in realtà il discorso prostituzionale in Italia è stato usato in modo molto demagogico, un po' per fare fumo, perché non si è voluto affrontare il problema in modo adeguato. Non si può lasciare solamente alle amministrazioni locali la gestione del fenomeno. Se si usano le ordinanze come strumento di gestione per governare la prostituzione, non funziona. Non funziona perché la prostituzione attualmente non può essere governata solamente a livello locale, perché sono anticostituzionali e perché non risolvono il problema. Finché non c'è una politica, non parlo di una legge, parlo di una politica nazionale. La politica nazionale va fatta basata su una scelta chiara che si fa, che spazio si dà o non si dà alla prostituzione nel nostro territorio. Non ha senso accettare anche culturalmente certe forme, come la forma dell'escort ad esempio, e negare che esistano varie forme della prostituzione, perché la prostituzione di strada è una forma tradizionale. Ci sono delle forme variegate di offerta del sesso commerciale, quindi bisogna vedere il panorama totale, di dire come viene offerto sesso a pagamento in questo momento, quali sono le forme che possiamo riconoscere come forma di lavoro legittimo, che strumenti amministrativi e giuridici abbiamo per fare questa distinzione, no? tra lavoro coatto e lavoro libero, e lavorare in modo pragmatico su questo. In più, gli interventi, soprattutto quelli che riguardano la prostituzione di strada, devono essere veramente fatti a colloquio con i soggetti che partecipano e che sono direttamente coinvolti in questo. Quindi comunque un lavoro che sia condiviso anche con le donne, con le prostitute, lavoro che voi fate anche quotidianamente. E diamo il sito della vostra fondazione, che è www.tampep.eu. Licia, ti ringrazio molto, un lavoro intenso quello che fate, che state facendo e che farete, quindi in bocca al lupo davvero per le vostre attività. Grazie. Ciao, buon sabato. Europost-it. Vincere un weekend giocando a fare il parlamentare europeo. Try on the Treaty, un gioco complesso ma molto stimolante. Fare lo stesso lavoro dei parlamentari europei, quindi discutere, votare leggi e proporre nuove risoluzioni. Tutto questo si può fare online partecipando a questo gioco interattivo. L'unica limitazione è quella della lingua, perché si comunica in inglese. Facendo tutte queste attività si accumulano punti e chi consegue il punteggio più alto vincerà un weekend in una capitale europea. L'idea e l'organizzazione è della Fondazione Polacca Robert Schuman e cofinanziato dall'Unione Europea. C'è tempo per partecipare fino al 17 dicembre 2010. Il sito per partecipare è treaty.pl. Continua il nostro viaggio in Europa alla scoperta delle cose anche che fanno tendenza o che fanno parlare. Stiamo andando a Berlino, dove la mostra del momento è intitolata Hitler e i tedeschi, una mostra che è stata inaugurata un mese fa presso il Museo Storico Tedesco, una mostra importante, migliaia di persone la stanno visitando, viene raccontato Hitler, viene raccontata la sua gioventù, i suoi acquerelli, Hitler in Baviera, il colpo di Stato, Hitler dalla nascita alla caduta. Una prima mostra che viene fatta di questo tipo a Berlino, volevamo visitarla, quindi abbiamo chiesto a un berlinese doc se poteva andare a vedere la mostra per noi e raccontarcela. Grazie alle amiche di caseaberlino.com che abbiamo conosciuto qualche puntata fa, abbiamo quindi conosciuto Mikkel Pitzker, notaio berlinese bilingue perché ha studiato a Pavia, che ha visitato la mostra per noi. Ciao Mikkel. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Come stai? Tutto bene, sì, tutto a posto. Tu hai studiato a Pavia, hai ancora qualche ricordo italiano che ti porti con te? Sì, va bene, non era Pavia, era Pisa, ma fa niente. Ah, scusa. È un po' in un'altra zona. Sì, no, ok, ho sbagliato io. Ma niente. Bella città in ogni caso, sì. Ti sei trovato bene? Sì, molto molto bene. Sì. Perfetto. Era, diciamo, 20 anni fa qualcosa, molto bene. Allora, Michele, hai guardato, hai visitato la mostra per noi, è una mostra bella, è una mostra che consigli? Allora, è una mostra che vale veramente, e la mostra, diciamo, il titolo è da un accento un po', diciamo, ambiguo, perché il titolo è Hitler e i tedeschi. Sì. E al primo momento si potrebbe pensare, va bene, è una mostra su Hitler, ma secondo me l'accento va messo e i tedeschi, perché è una mostra in parte su un po' la vita di Hitler, ma non così tanto. L'accento forte è quello come i tedeschi hanno, come dire, percepito senza critica, senza, come dire, senza ribellarsi, tutto quello che il nazismo aveva intenzionato, diciamo. E lì ci sono tutta una serie di oggetti veramente scioccanti che si possono vedere. Si trova che il nazismo e il Hitler ha fatto faccia per il nazismo. Chi è potuto infiltrare, ma proprio senza trovare nessun ostacolo in quasi tutti gli aspetti della vita. Okay, quindi... quello che veramente molto valida questa mostra. Mm-hmm. Quindi è veramente un viaggio nel tempo, è come entrare in un libro di storia. Ma qual è la prima impressione, la tua prima sensazione appena sei entrato? Cosa hai provato? La mia prima sensazione, va bene, prima è quella che è molto affollata. È veramente strapiena, un mezz'ora almeno di fila. La gente che è in fila, come dire, va bene, sono tedeschi, ma anche tantissimi turisti della città. Tipo, davanti a me nella fila c'era una coppia greca, dietro c'erano degli inglesi e poi si parlavano, diciamo, tutte le lingue. Quando si entra, al primo momento, come dire, va bene, si vedono dei ritratti di Hitler, ok. Ma mano a mano che si va avanti, poi subito, anche dopo il primo angolo, si entra nelle sale dove viene esposto tutto quello che noi tedeschi abbiamo fatto, come dire, per, diciamo, applaudire questa idea politica. Certo. Solo per dare un esempio, è un esempio che a me sono rimasto veramente bocca aperta quando ho visto questo oggetto. Hai l'idea di un arazzo, sì, che si trova ogni tanto in chiesa, un grande arazzo. Le signore di un piccolo villaggio vicino Fulda hanno ricamato il Padre Nostro, quella preghiera. Certo. E sotto ogni riga hanno ricamato a mano delle immagini di bambini nelle uniformi Hitler, tutto quello, come dire, è stato, come dire, messo in collegamento quella preghiera veramente di base con l'idea politica. Quindi, insomma, una fusione completa tra un'ideologia completa, e un popolo. Completa. E, come dire, non penso proprio che la Chiesa abbia dovuto fare questo. Mm-hmm. Penso che è stata una iniziativa di questa parrocchia. Di mettere questo, e questo arazzo era appeso nella chiesa fino al 45. Quindi insomma un esempio molto, molto significativo. Ho appena pubblicato un link sulla nostra pagina in Facebook, è un articolo preso da Caffè Babel, dove hanno fatto visitare la mostra a un tedesco, a un francese e a un italiano, e ci sono le varie prospettive, i vari punti, i punti di vista. Berlino ha paura di questa mostra o è veramente una pagina di storia chiusa, quindi è utile andarla a visitare per capire meglio il proprio passato e quindi anche il proprio presente? Diciamo che è una mostra che di sé per sé non porta niente di nuovo. Sì. Perché va bene, si sa, e quando si vive a Berlino più che altro si sente e si vede ogni giorno quello che è successo in questa città 60 anni fa. Ma, come dire, dà un bell'immagine di tutto quello, come noi tedeschi siamo, come dire, senza pensare abbiamo accettato tutto quello che questi signori si sono inventati. Incredibile. E per quello vale. E l'aspetto del nazismo, diciamo, Hitler dà l'immagine. E per quello, come dire, è il titolo è Hitler e i tedeschi. Ma in sostanza, alla fine, anche, come dire, viene un po' riportato quello che si è fatto con il Hitler morto, dove è prima stato sepolcrato, poi tirato fuori, poi bruciato e tutto quanto. Ma quello è solo, dà un'immagine. Ma quello che è più, come dire, significativo di questo, di questa mostra è, come dicevo, che i tedeschi hanno accettato in tutti gli aspetti della loro vita questa ideologia, questo regime. Michele, grazie davvero. Diamo il sito, la mostra è aperta fino al 6 febbraio 2011, www.dhm.de. Mettiamo il link, l'abbiamo già messo anche in Facebook. Bene. Grazie davvero, Michele, sei stato gentilissimo. Ok, ciao ciao. Ciao, alla prossima, ciao. Buon sabato, ciao ciao. Europost-it. La poesia europea è di scena a Vienna. Si terrà giovedì 18 novembre a Vienna la seconda edizione del Festival Europeo della Poesia, una manifestazione organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Vienna alla quale parteciperanno poeti di diversi paesi europei. Dalla famosa poetessa austriaca Friederike Mayröcker, che aprirà l'evento, a poeti russi, polacchi, tedeschi, spagnoli e portoghesi che leggeranno i propri componimenti. A rappresentare l'Italia ci saranno Tommaso Chemeni e Nanni Balestrini. Per informazioni c'è il sito dell'Istituto Europeo di Cultura iicvienna.esteri.it. Parliamo d'Europa, ma lo facciamo dall'Italia. Perché? Perché a Milano il 18 e il 19 novembre, quindi giovedì e venerdì, ci sarà questo appuntamento mondiale, importantissimo, Science for Peace, la scienza al servizio della pace, promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi, scienziati appunto che mettono a disposizione il loro sapere per fare ragionamenti sulla pace nel mondo e in particolare anche sulla pace in Europa. Una sezione è proprio dedicata all'Europa e a quest'idea di un esercito comune europeo. Per capire bene quello che accadrà durante questo convegno e per entrare anche nello specifico dell'argomento, abbiamo invitato Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo. Ciao Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Scienziati al servizio della pace, qual è l'idea di fondo di questo convegno? Ma l'idea di fondo è che se vogliamo veramente la pace, oltre a declamarla, oltre a chiederla dal punto di vista ideale, dobbiamo costruirla. E tutte le cose che nel nostro mondo vanno costruite con la testa, con la razionalità e mettendoci l'impegno e il discernimento giusto. Quindi la scienza in tutte le sue propaggini, in tutti i suoi ambiti può aiutare assolutamente a costruire una pace reale. Ecco, e si può parlare di pace partendo da un esercito, da quest'idea di un esercito comune europeo. Perché? Sì, certamente per chi come noi ha la prospettiva disarmista, alla fine si cercherà di costruire una pace che non abbia bisogno di armi e di eserciti, però sicuramente nello stadio attuale un avvicinamento può voler dire anche non sprecare risorse in mastodontiche strutture, ma cercare di costruire qualcosa che sia realmente efficace. E molti studi militari ai giorni nostri dicono che un esercito europeo che possa intervenire rapidamente nelle questioni internazionali potrebbe essere composto solamente da 200-250 250.000 uomini e donne. Attualmente sotto le armi in Unione Europea ci sono 2,5 milioni di persone. Questo vuol dire anche mantenere una struttura che costa, che è grossa, che ha bisogno di più acquisti. Ognuno deve comprarsi i suoi aerei, i suoi elicotteri, i suoi carri armati. Invece l'idea di un esercito comune che possa anche quindi cementare questa nuova Europa che vogliamo costruire potrebbe liberare risorse da investire in tutti gli altri ambiti. Ma è solo un'idea o si sta già lavorando a un progetto, insomma, di realizzazione di questo progetto? Ma diciamo che alcune spinte sono state date, però gli stati nazionali sono molto resti a lasciar perdere e a lasciare andare le mani su questa tematica, per cui purtroppo rispetto ad altre iniziative di livello europeo le questioni sono ancora abbastanza indietro. È un peccato, perché d'altra parte invece su altre questioni, penso ad esempio quelle che riguardano l'industria della produzione militare, si stanno muovendo prima. Ecco, forse gli affari arriveranno prima di qualcosa che sia costruito dalle nazioni e dagli stati. È un peccato, perché appunto potrebbe essere un modo anche di unificare maggiormente un'Europa e dargli un aspetto politico e una chiave di lettura politica molto più forte. Francesco, tu appunto da coordinatore anche della Rete Italiana per il Disarmo ti occupi di idee, di politiche legate al disarmo. Qui invece la situazione com'è? Qual è la posizione dell'Italia e qual è la posizione dell'Europa? Ma noi diciamo da tempo che togliere risorse alla costruzione di armamenti e in particolare alla gestione delle spese militari potrebbe essere utile e potrebbe essere soprattutto molto più conveniente per un investimento nel civile. I governi se ne stanno rendendo conto proprio in questi giorni, ma diciamo spinti dalla crisi, molti governi, penso ad esempio alla Gran Bretagna che ha annunciato un taglio addirittura dell'8% delle spese militari, una riduzione di circa 80.000 uomini e donne dei loro effettivi, ci stanno ragionando. In Italia abbiamo una problematica un pochino diversa, perché secondo i dati di nostre ricerche che abbiamo pubblicato quest'anno e confermati anche dal Ministero della Difesa, la gran parte delle nostre spese militari va in una gestione non proprio efficiente del personale, della struttura. Tanto è vero che anche i capi di Stato Maggiore continuano a dire che devono tagliare le ore di esercitazione e di addestramento. Per cui noi spingiamo veramente per un riequilibrio di queste risorse, per una riduzione o uno spostamento su tematiche molto più utili alla quotidianità. Se noi abbiamo 40.000 marescialli, che sono i residui in un certo senso del vecchio esercito di leva, che nell'esercito moderno non possono essere impiegati come potrebbero essere impiegati, si potrebbe spostarli per esempio sul controllo del territorio, sulla pulizia. È una proposta che sembra banale, ma che porterebbe delle risorse già impiegate ad avere un impatto maggiore sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. Diamo il sito, che è www.fondazioneveronesi.it, per chi volesse conoscere nel dettaglio il programma. Un'ultima domanda, Francesco, ma ecco, tu hai già vissuto lo scorso anno questo convegno, tra scienziati, tra persone di scienza vi trovate, parlate di pace, però l'umore di fondo qual è? Quello di un sano ottimismo, un sano realismo o un poco sano pessimismo? Ma qui magari è tutto immediato da me, io sono un ottimista di natura, io credo che qualunque incontro, qualunque momento, qualunque diffusione anche di notizie come stiamo facendo adesso, che possa rendere più consapevole la cittadinanza, l'opinione pubblica di questi problemi, ma anche di piste di soluzione, perché la cosa bella è che all'interno di Sensor Peace e in tutte le cose che cerchiamo di fare anche come Rete Disarmo, noi diamo delle piste di soluzione, diamo delle alternative. Vi faccio un esempio banale: al posto di acquistare 131 cacciabombardieri F-35 che forse l'Italia andrà a acquistare, noi potremmo con gli stessi soldi contemporaneamente ricostruire il centro dell'Aquila e dare un sussidio di disoccupazione a tutti i disoccupati. Ecco, noi non vogliamo solo dire no a questo, no a quello, ma grazie al lavoro di tutti e alla mente, alla testa e alla razionalità, oltre che al cuore di tutti, costruire delle alternative che sono realistiche, possibili e che ci permetteranno di costruire la pace. Grazie davvero a Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo e direttore operativo della cooperativa Altra Economia. Ciao Francesco, buon sabato. Grazie mille, buon sabato a voi. Lo avete riconosciuto, eh? Pensate sia Elvis. In verità no, lui è Don Elvis. Stiamo entrando infatti in una storia bellissima, la storia di Don Antonio Petrescu, dalla Romania in Italia per fare insomma il sacerdote. ma è anche l'unico prete in Italia, in Europa, probabilmente nel mondo, ad essere sosia ed interprete ufficiale di Elvis. Diamole il benvenuto a Don Elvis o Don Antonio, come ti chiamo? Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, io dico che la cosa importante è chiamare la persona, come mi chiamate non è importante, è importante chiamarla, è il segno di rispetto, di stima nei suoi confronti. Allora, poi chiamatemi, ecco, come vi sta più comodo, come vi fa piacere. Perfetto. Allora, Don Antonio, intanto io ho già caricato video, tue immagini, tue fotografie sul profilo Facebook dell'Altra Europa, c'è anche il link al tuo sito che è antoniopetresco.com. E già lì entri e c'è un bivio, nel senso che c'è il sacerdote e l'artista, e noi entriamo perché vogliamo conoscere l'artista, perché la tua storia è bellissima. Ci puoi fare un riassunto del come si nasce Antonio, si diventa Don Antonio e si diventa poi Don Elvis? Oddio, il percorso è... mi ci vorrebbe un'oretta, per descriverti la mia storia. Comunque, così, in maniera breve, posso dirti che io nasco come tutte le persone normali, no? Su questa terra. Mi ritengo una persona normale, nel senso che ho avuto un'infanzia normale, sono cresciuto per un determinato momento della mia storia, della mia vita. Mi sono posto delle domande, cosa fare da grande? E niente, poi ricordo all'epoca vivevo a Bucarest, che è la mia città d'origine, dove sono nato, e nella parrocchia d'origine c'era un giovane sacerdote appena arrivato che, non lo so, aveva fascino, ne aveva da vendere, okay, di fascino, e mi ha fatto così avvicinare a Cristo, alla Chiesa, alla fede e anche a questa figura, no, del sacerdote. Poi piano piano mi sono posto delle domande esistenziali e mi sono detto, ma se quello, dico, è un bel uomo, un bel ragazzo, fa il prete, io perché no? Okay. E quindi ci ho provato, sono entrato in seminario, poi pian piano sono cresciuto, okay, la vocazione matura col tempo. E questo insomma è il percorso di vita che ti ha permesso di diventare sacerdote. Elvis invece come e dove lo ha incontrato? Ma Elvis, diciamo che è sempre stato presente nella mia vita, e questo grazie ai miei genitori e a mio fratello, che all'epoca era anche lui un fan sfegatato di Elvis, un Elvis impersonator, eccetera. E quindi si andava al cinema, ricordo all'epoca, a vedere i suoi film, ma poi più che altro mi ha affascinato il personaggio, cioè questo ragazzo che ci aveva tutto, dai, diciamolo, ammettiamolo, quest'uomo aveva tutto, era un bellissimo uomo dal punto di vista estetico, no? Sì. Fisico, poi una bellissima voce, poi uno spiccato senso dell'umorismo, un ottimo attore, aveva presenza scenica, insomma era completo da questo punto di vista artistico. E non lo so, mi ha rovato il cuore, non lo so. Insomma, un... cioè, mi sono innamorato del personaggio, della sua musica, della sua voce. Allora, diciamo che insomma, una doppia vocazione che hanno accompagnato, sì, tutta la tua vita. E Don Antonio, abbiamo pochissimo tempo. E tu assomigli tantissimo a Don Elvis, ti vesti come lui, fai esibizioni in tutta Italia perché sei in tournée, e torneremo sulla tua storia. Però voglio arrivare alla fine di questa storia, cioè ai giorni nostri, e dove sei uscito con un nuovo disco. Sì, come dicevi molto bene tu, io sto portando avanti anche questa attività artistica, c'è una band, siamo 9 elementi base, però all'occorrenza la band si allarga, ne diventiamo 15 inserendo una sezione archi, fiati e cose varie, e quindi andiamo un po' in tutta l'Italia per intrattenere il pubblico e per far conoscere la musica e la musica di questo personaggio. Sì, ecco, come dicevi molto bene tu, è appena uscito il nostro biglietto da visita, il nostro lavoro discografico che rispecchia la mia personalità artistica. Ecco, ci tengo a dire che tutto quello che sentirete è roba registrata live in studio, non ci sono suoni virtuali, computerizzati, tutta sta roba. Per cui io spero di far bene sia come sacerdote che come artista, di continuare a condividere con la gente questa passione, questo carisma, questo dono che mi è stato elargito. Io poi dico, ecco, se mi consenti, dico soltanto questo, che la musica è un dono di Dio che eleva l'anima al creatore, che ci fa toccare con mano la bellezza della sua presenza, che fa pregustare il sapore del paradiso. Okay. Ecco, credo di aver detto tutto. Hai detto tutto. Grazie Don Antonio, ciao e buon salutaci Elvis. Buon ascolto. Lo teniamo sotto sui titoli di coda, tutti i link, tutti i video e le musiche di Don Antonio sul nostro profilo Facebook. È il momento dei saluti, un grazie a Margherita Ine, Alba Rondelli che con me hanno scritto la puntata, a Peter Bescapè la parte tecnica. Noi ci ritroviamo qua, come sempre, sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Tardiano.